Regioneer, martedì 29 marzo 2011, sono le 4 e 5 minuti, ci scusiamo per il ritardo. Iniziamo subito questa puntata con questo sound che scalda la nostra primavera, è ritornata la nostra ora. Era il testo dello striscione che è stato esposto sul ponte vicino a Via Cavour, dietro il Colosseo, dagli studenti auto-organizzati di Roma per lanciare la data dell'8 aprile. Ed è proprio di questo che andiamo a parlare oggi, cioè dei movimenti di questa primavera, il Knowledge Liberation Front, le giornate del 24, 25 e 26 marzo. Sì, appunto, come stavamo dicendo prima, questa primavera di mobilitazione, come avevamo già visto, stava succedendo in Italia dopo i grandi movimenti del Nord Africa che avevano attraversato il Mediterraneo, avevano riempito di aria di rivolta tutti noi e il resto dei paesi europei, a seguire della grande assemblea che si era tenuta a Parigi intorno a metà febbraio. Si è voluto in questi tre giorni, diciamo prima, il 24, il 25 e il 26 marzo, cercare di dare un segnale a livello europeo, a livello internazionale, dove appunto le generazioni che sono state in rivolta durante l'autunno e si sono opposte fermamente e con determinazione alla crisi dei loro stati e delle banche che continuavano, come abbiamo sempre detto noi, a volercela far pagare, a farcela passare sulla nostra pelle, ancora una volta hanno dimostrato di potersi ribellare. Avevamo visto i passaggi fatti in Italia fra gennaio e febbraio e marzo, le varie manifestazioni si erano susseguite, prima con i metalmeccanici, poi a difesa e a difesa di scuola e università pubblica, e abbiamo visto come ancora una volta sia in Italia sia all'estero si sia data un'ulteriore risposta. Grandi giornate di mobilitazione a Londra intorno al 26 marzo e una marea di azioni sia, come dicevo prima, in Italia che nel resto d'Europa. Sì, di essere diventato un fottuto numerino nelle mani del... Ok, ci siamo. E come ha già detto qui il nostro compagno, Londra è stata una bellissima giornata, tutta quanta la manifestazione è durata praticamente 24 ore, cioè tutta quanta la pubblicità che è stata fatta è stata puntata per creare questo dissidio, questa forma di protesta per ben 24 ore. Partita tutta quanta dal Hyde Park, che è stato praticamente il centro della protesta, dopodiché si è espansa tutto quanto il centro della città, colpendo la maggior parte delle banche internazionali, ad esempio abbiamo la RBS, passando anche per i media, hanno occupato varie sedi della BBC, hanno attaccato, per non parlare poi degli altri multinazionali come la McDonald's o la Tesco, e hanno sparso questa rabbia che gli premeva. Sì, appunto, abbiamo parlato di Londra, c'è stata questa grandissima giornata, gli organizzatori dicono 300.000 persone in piazza, numeri da sciopero generale del mondo studentesco. Prima abbiamo accennato a questa Tre Giorni di Parigi, diciamo che è un evento abbastanza raro vedere tutti gli studenti d'Europa che si incontrano a Parigi per parlare di crisi, per parlare di scuola, dalle scuole medie, dai licei e soprattutto l'università. Abbiamo visto, erano presenti molti universitari, anche italiani, e si è sceso in piazza il 24, il 25 e il 26 in molte città d'Italia e d'Europa in generale. Si è parlato di crisi, questa crisi che ha investito tutta l'Europa e di come è stata affrontata la crisi dai vari governi. Tutti quanti i governi hanno, diciamo, un punto in comune, quello di attaccare la scuola pubblica e l'università. A Londra sono state triplicate le tasse universitarie, in Italia tutti quanti sappiamo, Italia prima ai licei avvenuti nel 2008, quindi alle scuole medie superiori in generale, e quest'anno è passata anche la riforma Gelmini, da cui, diciamo, i primi segnali negativi avvengono adesso. Ci sono problemi di borse di studio, di corsi di laurea, cambio d'esami, ci sono stati vari accorpamenti. Diciamo, siamo la prima generazione che subirà questi tagli pesanti. E la risposta di tutti a questa crisi è stata proprio attaccare il mondo della cultura, che va dalla scuola al teatro. Sappiamo comunque che sono nati molti movimenti che non riguardano semplicemente la scuola, ma riguardano in generale il mondo dell'arte e della cultura. Adesso, diciamo, vi facciamo sentire un altro po' di buona musica e dopo faremo due corrispondenze con Milano e Torino e con altre città che hanno partecipato a questi tre giorni. Sì, è appunto una generazione che, condannata, come abbiamo detto anche prima, a una precarietà ormai dilagante in tutta Europa, ha deciso di rivoltarsi. E quello che abbiamo visto il 26 a Londra può far ben sperare a livello di mobilitazione europea dopo i grandi fuochi visti nel Nord Africa, per questa primavera che tende piano piano a scaldarsi. Abbiamo visto come decine e decine di azioni siano state portate avanti da moltissime persone, come diceva il compagno prima, e 300.000 è il numero dato in corteo, ma oltre agli scontri sono state davvero decine di azioni che hanno riempito, bloccato e fatto capire la rabbia dei manifestanti a tutta la città di Londra, allo Stato inglese e speriamo al resto degli stati europei, che pian piano stiamo facendo scaldare ulteriormente questa primavera dove iniziano a sbocciare i fiori. Prima di continuare questo discorso, dei The Clash, I Fought Low. I Abbiamo parlato adesso di Londra, dell'Assemblea di Parigi, della situazione europea, ma torniamo dentro i nostri confini a Milano. Pronto, ci sei? Ciao, sì. Buon pomeriggio. Senti, anche a voi. Noi abbiamo letto i comunicati su internet che parlano della giornata del 25 con una giornata di grande mobilitazione a Milano. Beh, insomma, raccontaci tu che eri lì di persona, cosa è accaduto in quella giornata. Sì, allora, a Milano il 25 marzo all'interno della Tre Giorni Europei di Mobilitazione, appunto, di cui vi state parlando, c'è stata la giornata, l'appuntamento studentesco. Infatti c'è stato il corteo dei collettivi studenteschi delle scuole superiori, che a parte erano in mezzo alla piazza che ero lì, ed è stato un corteo molto bello, molto importante, perché sicuramente sono stati molto partecipati dai collettivi, dopo tutti stati nelle scuole e gli spettoni, ed è stato anche un corteo che è andato anche a colpire quelli che sono un po' anche i simboli, no? Di questo sistema, di questa casta che funziona tutto sul magna magna dei nostri soldi, dei nostri diritti. Infatti le parole d'ordine del corteo sono state: sveglia, cacciare i rai se possibile, e riprendendo anche un po' una campagna che stiamo portando avanti, vogliamo Berlusconi in esilio e le sue ricchezze, confischiamo le sue ricchezze e restituiamo le scuole e welfare. Proprio per questo, durante il percorso sono state sanzionate diverse banche, e ogni volta che appunto facevamo un sanzionamento appendevamo sopra la banca un enorme poster con Berlusconi non la faccia ragione, che era sulle spalle un bersaglio che abbiamo lasciato appunto su ogni funzionamento, per far capire che dietro a Unicredit Banca, che è una merda anche perché fa gli accordi con Gheddafi, per i dittatori che noi abbiamo armato per tutti questi anni, eccetera eccetera, c'entra Berlusconi, che dietro un'altra banca che ruba i soldi è sempre lui, che insomma tutto quello che non funziona in Italia è su quello che esiste di ruberia, lo spalle del nostro futuro e dei nostri soldi, c'entra Berlusconi, che è il primo che sta arrivando a casa, ovviamente, solo il primo di tanti, quando noi diciamo che questo maestro, diciamo, intanto che ne vada Berlusconi e poi comunque tutti. Il corteo, infatti, per questo è finito alla Fininvest, che è la principale finanziaria di Berlusconi, che è la conquista che ha costruito tutto l'impero mediatico, quindi anche politico, con un cassero raso, che appunto il cassero raso Tempone e prima massa che se vai a Antodo, appunto, sempre sulle mani dell'Argentina, certo. Perciò insomma lì sotto, il fatto che in tempo così Berlusconi è sempre più ricco, solo io mi scrivo gli articoli di giornale che dicono che dal 2009 al 2010 è 70 volte più ricco, 70 volte per cento più ricco, mentre per la scuola ad esempio lui ha stanziato solo 52 milioni di euro, per lui ne ha guadagnati 118 solo nel 2010, insomma, i conti non tornano proprio. Perciò la giornata, insomma, ha visto svariate contestazioni ai simboli del capitalismo, e perciò insomma si è allineata alla linea internazionale che era uscita da quella famosissima Assemblea di Parigi. Sì. E, insomma, sono avvenuti episodi simili a quelli internazionali. Sì, sicuramente quello l'abbiamo visto. Sì, certo, anche perché appunto comunque le parole d'ordine erano quelle del capitalismo finanziario, del magna magna, soprattutto del dettaglio, il malcontento che si sente. Tanto per dire, il giorno prima, sempre a Milano, siamo andati a fare lezione dentro la sede della borsa, più o meno buttati fuori, ma insomma c'è una lezione sempre su questi temi di economia, certo. Dentro la borsa, il cuore dell'economia italiana. Tutti effetti. Quindi di... sicuramente è molto, molto importante che da 3 giorni si è avuto molto risalto. Certo, tutti effetti della stessa causa, insomma, del malcontento che si sente in tutta Europa. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon pomeriggio. Grazie a voi. E auguri per il futuro. Buona lotta a tutti. Beh, a questo punto speriamo si lanci davvero questa primavera un po' più calda che dicevamo poco fa, che appunto adesso da queste mobilitazioni avete già portato in piazza voi, che cercheremo di portare in piazza qui a Roma, che magari si seguiranno in altre città d'Italia se arrivi poi al 6 maggio. Certo. Un saluto. E anche il 25 aprile qua a Milano. E beh, certo, anche da noi, scusa. Ciao, un salutone, grazie ciao. Mille. Ciao, grazie. Ciao. permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. Cause until that day, the dream of lasting peace, war, citizenship, and the rule of international morality, yeah, will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Well, everywhere is war. It's your war. War in the east, war in the west, war north, war down south. It's a war, war of war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been doubled, yeah, utterly destroyed. Well, everywhere is war. It's your war. War, war in the east. Allora, ciao Vincenzo, benvenuto qui a Regione Air. Raccontaci un po' che cosa avete fatto voi in questi tre giorni di mobilitazione, il 24, il 25 e del 26. Bene, noi da Torino abbiamo concentrato la nostra attività in particolare sul legame che c'è tra gli istituti finanziari e il mondo della formazione, nel senso che la San Paolo, qua a Torino, ha il possesso di molti stabili degli istituti scolastici o di singole parti delle università o addirittura si occupa dei prestiti d'onore e di altre particolari questioni legate alla formazione, per cui c'è parte importante, dato comunque il lancio internazionale molto proiettato sulla lotta al capitalismo finanziario e al legame che c'è stretto tra il capitalismo finanziario e il mondo della formazione, condurre una serie di azioni che nascono in questa direzione. Sicuramente comunque abbiamo visto come c'è questa politica di tagli e di austerity che in tutta Europa e possiamo dire anche in un certo senso in tutto l'euro mediterraneo ha avuto atto dopo la crisi, ha come obiettivo quello di salvare questo sistema finanziario, no? E quindi il nostro discorso è stato improntato soprattutto su questo. Il 25 mattina abbiamo prodotto una serie di occupazioni delle sedi principali delle banche torinesi. In particolare siamo andati alla sede centrale della Banca San Paolo, dove i compagni sono entrati, sono riusciti a superare comunque il blocco che c'era stato da parte di dei guardiani e di alcuni agenti, e hanno occupato la banca simbolicamente per un certo periodo, raccogliendo la solidarietà di chi era dentro la banca e dei passanti che c'erano fuori, a dimostrare quanto la nostra azione abbia colpito nel cuore vivo della città e del sistema, quanto abbia toccato proprio una delle sensibilità di questa cosa. La polizia è arrivata in massa, ha fatto uscire gli studenti, li ha circondati minacciando di identificarli tutti, tenendoli circondati per un lungo tempo, dopodiché, vedendo comunque la figura che stavano facendo in pubblico, vedendo i passanti che mostravano solidarietà ai manifestanti, hanno lasciato il blocco, hanno lasciato andare i compagni. E comunque la San Paolo, dopo tutto ciò, aveva iniziato a minacciare tutti ha minacciato di denunciare tutti i compagni che hanno partecipato a questa azione. Ho capito. Senti, noi, a proposito proprio di questo, cioè tu stavi parlando dei cellerini, delle forze dell'ordine che vi hanno accerchiati, insomma, con aria un po' malvagia e insomma un po' provocatoria. Noi stavamo giusto guardando prima i video di Londra, insomma purtroppo non siamo stati lì. Abbiamo visto una grande differenza tra come si comportano le forze dell'ordine qui in Italia e lì, nel senso che lì abbiamo visto un grande senso di civiltà. Tu non so se hai visto quei video e se hai sentito sulla tua pelle questa oppressione. Sì, certo, questo sicuramente. C'è da dire anche che comunque l'Inghilterra non vive un grande ciclo di lotte da molto molto molto tempo, mentre da noi comunque diciamo che la repressione è sempre stata la risposta alla potenza delle soggettività che si sono espresse in questi anni da parte capitalista, e quindi noi diciamo che in questa dinamica possiamo certamente affermare quanto sia diverso il comportamento, però non ne farei, come dire, una discriminante tra la polizia strana e quella di altrove. Semplicemente comunque a seconda delle diverse storie, possiamo dire, che hanno vissuto le lotte nei diversi paesi, c'è stato un diverso comportamento della polizia in piazza. Questo non toglie nulla ai compagni inglesi, che sono stati capaci di reinventarsi e di inventare una conflittualità inedita, completamente inedita in Inghilterra sotto questo profilo. E quindi sicuramente, un po' come anche avevamo sentito spesso con i contatti che abbiamo in Inghilterra, c'è un guardarsi a vicenda che poi in queste giornate, che ha attraversato il Mediterraneo, che continua a creare sia riproduzione di immaginario sia riproduzione di lotte in tutti i paesi mediterranei comunque. Sì, infatti giustamente, come dicevi tu, anche lì in realtà c'è stato una spinta da parte della polizia particolarmente grande su un corteo immenso, e comunque cercavano di racchiudere e di bloccare, soprattutto nell'ottica delle decine di azioni che si svolgevano. Tra l'altro, proprio a Torino poco tempo fa avete avuto una brutta storia di repressione, il giorno in cui avete cercato di avvicinare Berlusconi, no? Che abbiamo visto sempre dai video e un po' dai racconti. Quanto sono divertiti a lanciare lacrimogeni sotto dei porticati di là, a inseguire dei manifestanti e dei compagni, addirittura aggredirvi a mani nude. Sì, sì, infatti comunque anche lì abbiamo dimostrato come a toccare un nodo sensibile della città, o meno male anche cioè in generale di un sistema nazionale che è sempre più in crisi e che si riempie sempre più di contraddizioni, la reazione rimane pur sempre la repressione, nonostante in questi ultimi anni abbiamo visto molto della polizia che voleva fare la parte del giusto dopo il G8 di Genova. Vediamo come quando riemergono le contraddizioni reali, quando i movimenti sono capaci di coscientizzarsi, l'unica risposta che veramente sa dare istantaneamente, se vogliamo, la parte capitalista è questa. Quella giornata è stata una giornata fantastica, possiamo dire, soprattutto perché comunque tantissima gente comune ha espresso un livello di conflittualità interessante e non è sfuggita, ma è rimasta in piazza a resistere e a gridare sulla cacciata del Rais nostrano. Quindi anche qui un buon segno, se vogliamo, un filo comune che comunque ha percorso quelle che sono state le istanze che si sono viste ad Arcore. Quello che comunque anche qui è un immaginario che si sta riproducendo in molti posti, dal Wisconsin degli Stati Uniti che riprendeva il barra egiziano appunto all'antica inglese, fino al 14 romano, al nostro tutti insieme fanno paura, no? Guarda Vincenzo, ti ringraziamo tanto per questa tua corrispondenza, vi auguriamo buona fortuna per tutto, un buon continuo di lotta per questa primavera, sperando che il 6 maggio possa essere una grande giornata per tutti in questo paese, e ti ringraziamo ancora. Bene, in questo clima di austerity che è stato tanto contestato appunto questi giorni, parola usata molto dall'Assemblea di Parigi, speriamo appunto a rilanciare queste lotte durante la primavera, come dicevamo poco fa, e adesso andiamo oltre che a salutarti e augurarvi buona lotta a tutti, ad ascoltare un altro pezzo. Sì, ciao, buon pomeriggio. Vi ricordiamo che state ascoltando Region Air, questa è Radio Onda Rossa agli 87.9 MHz, il numero per chiamare la radio è 06 49 17 50, gli U2. To play Jesus. Sì, appunto, abbiamo già parlato delle diverse città dove si è sceso in piazza, si è cercato di fare delle azioni in questo clima di protesta primaverile portato questi tre giorni, il 24, il 25 e il 26 marzo. E adesso andiamo a sentire Bologna, ci senti? Sì, sì, ciao a tutti e tutte. Ciao, senti, vabbè, molto semplicemente, raccontaci un po' che cosa avete fatto a Bologna e poi ne parliamo un po'. Beh, abbiamo visto a Bologna in questi tre giorni appunto i compagni universitari spendersi in tutto per tutto, partendo appunto dalla giornata di giovedì, di quando gli attivisti dell'università si sono messi letteralmente in mutande durante un blitz all'interno proprio di una filiale di Unicredit, trasformando appunto la banca in un salotto casalingo. Venerdì appunto è continuata l'azione dei compagni università con appunto un blocco stradale su un'arteria principale dello snodo bolognese, e durante questo blocco qua si è andati a bloccare con un mini corteo sempre una filiale di Unicredit, bloccando e denunciando appunto con uno striscione l'ingresso di una delle principali sedi appunto di Unicredit qui a Bologna. Dopo queste due giornate tutto si è concluso nella giornata di sabato, nella quale ci ha visto sicuramente noi partecipi con il nostro collettivo di studenti medi alla parade che avevamo indetto, che era intitolato appunto Take the Future Parade, una parade che ha sfilato per le vie della città dalle 5 di pomeriggio all'1 di notte, durante la quale naturalmente non è solamente un momento di festeggiamenti, ma è stato soprattutto un momento di azioni e di sanzionamento appunto sempre degli Unicredit, delle banche che hanno incontrato durante il percorso, e in più sono andati a sanzionare anche la sede dell'ATC, la zona trasporti pubblici bolognese, che appunto si aprirono qua, sta perpetrando all'interno della città aumenti folli, quindi sono andati anche sul piano di richiesta di reddito, di appropriazione di reddito diretta appunto con la campagna che stiamo portando avanti contro il caro trasporti. Tutto questo si è concluso naturalmente in una piazza principale di Bologna che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti, studentesse, precari, immigrati che per tutta la giornata hanno sfilato al nostro fianco per le vie della città. Quindi tanta determinazione anche da voi, buoni numeri, direi una buona quantità di frazioni, cioè avete riempito tutti i tre giorni, poi mi hai detto addirittura un corteo fino a l'una di notte. Sì. Quindi vabbè, che dire, complimenti. Tanta rabbia di nuovo in piazza, tanta voglia di riscendere a quanto ci dicevi, sia da parte degli studenti medi sia degli universitari, che penso, come abbiamo sentito poco fa a Torino, da parte anche del resto della cittadinanza, che come ci diceva il compagno di Torino, da loro si è espressa molto a favore di chi manifestava e protestava. Sì, assolutamente, cioè ormai sembra, è ovvio, ormai è un fatto più o meno accettato comunemente anche all'interno di Bologna, il ruolo preponderante che hanno le banche, cioè nel perpetrare le politiche di austerity a livello europeo, cioè l'abbiamo notato, come in particolare subito agli occhi potrebbe balzare la sproporzione che viene somministrato di capitali per riequilibrare un attimo i dissesti interni che hanno le banche, mentre invece vengono solamente le briciole, vengono destinate all'innovazione e ai servizi che appunto è la popolazione normale va a confrontarsi tutti i giorni. Quindi penso che sia ormai plateale, tutti ormai siano al corrente delle vicissitudini interne in piani welfaristici ed economici all'interno nell'Italia intera, penso, perché non penso ci sono fattori bolognesi. Quindi sì, anche da parte della popolazione bolognese è stata una buona risposta, tranne i giornali, che dopo naturalmente il fatto di attacchi alle banche, naturalmente molti giornali sono schierati contro questi tipi di iniziative, ma sicuramente su un piano comune e di sentore cittadino siamo stati presi proprio ben visti, soprattutto se si è notato proprio dalla partecipazione. Non si trattava solo di studenti e studentesse come per il movimento appena passato, ma questa nuova composizione che è venuta a crearsi all'interno anche della piazza di sabato mostrava appunto che c'è voglia di fare, c'è rabbia. Perfetto, quindi una continuazione di quest'autunno caldo che ci ha accompagnato tutti nelle nostre città, anche nella primavera che ci stiamo vedendo iniziare a scorrere davanti, questo appunto inizio di primavera che possiamo prefigurarci, esatto, calda. Esatto. Beh, esatto, allora questo speriamo in bene. Ringraziamo e auguriamo a tutti, come abbiamo già fatto nelle altre città, buona lotta anche a voi verso questo 6 maggio che pian piano si avvicina e verso le altre mobilitazioni che si avranno nelle varie città, augurando un ottimo periodo a questo punto direi alle banche e al nostro governo e Stato che ci stanno facendo passare questo fantastico periodo. Quindi noi ti salutiamo di nuovo, ti ringraziamo e buona lotta a tutti. Grazie a voi, ciao a tutti e a tutte, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Non mi svegliate adesso che sto fa un bel sogno, non c'ho più soldi, ma perché non c'è bisogno, adoro il mio paese e non mi vergogno, non mi svegliate proprio adesso sul più bello. Piove solo quando dormo, se non c'è sempre il sole, tutte le mattine sono di buon umore, vado a lavorare solo per poche ore, alla mia comunità do la mia professione, c'è fiducia tra la gente perché non c'è corruzione, sono fa politico, non fa l'imprenditore, sono un poliziotto, non puoi far torturatore, chi se vuole fa una canna non rischia la prigione, in galera pena vita, non affida al senatore, chi lo Stato è per le persone, con la mafia zero connessione, sono ancora vivi Borsellino e Falcone, il mio sindaco si sa, non è stato un picchiatore, il papa nella mia città non attacca al pippone, l'uomo non ha più bisogno della religione, nelle case non funziona manco più televisore. Non mi svegliate adesso che sto fa un bel sogno, non c'ho più soldi, ma perché non c'è bisogno, adoro il mio paese e non mi vergogno. Non mi svegliate proprio adesso sul più bello, non c'è traffico né inquinamento, non si costruisce più con il cemento, solo gli onesti vanno in Parlamento, quelli della volta pure il pavimento, non ci sono tunnel del divertimento, anche Cavarezza ci sarebbe dentro, nel lavoro non c'è sfruttamento, niente parti bianche, occupazione in aumento, c'è l'intera umanità, ma che vive in libertà, non c'è lusso né ricchezza né miseria e povertà, uno fa ciò che può fa, poi le sue capacità, tutti fanno scelte, danno opportunità, non ci sono iniquità e non serve carità, con il freddo tutti c'hanno un posto caldo dove sta, le leggi a questi consuma solo per necessità, l'aria limpida e pulita pure nella mia città. Non mi svegliate adesso che sto fa un bel sogno, non c'ho più soldi, ma perché non c'è bisogno, adoro il mio paese e non mi vergogno, non mi svegliate proprio adesso sul più bello. Non mi svegliate adesso che sto fa un bel sogno, non c'ho più soldi, ma perché non c'è bisogno, adoro il mio paese. Ma eri svegliato, ma stava a fare. L'acqua è sangue della terra, l'acqua è vita, l'acqua scorre libera. Non c'è niente che sia più importante sul pianeta di questo liquido magico che mescola e rimescola. L'acqua gira nella giostra della vita, ciclicamente evapora e precipita, bagna ogni cosa, la nutre e poi scorre via, sulla sua scia ogni anima resuscita. Due atomi di idrogeno e uno solo d'ossigeno, è questa la mia pozione magica. H2O è quello che mi serve, l'acqua mi penetra, mi lava, mi purifica. L'acqua. State sempre ascoltando Region Air, sono le 5:05, purtroppo la trasmissione sta per finire, siete sugli 87.9 MHz di Radio Onda Rossa, il numero per chiamare, per chiamarci è 06 49 17 50. Questa è L'acqua dei radici nel cemento. Sono politico. politici, mafiosi e multinazionali, a succhiare il sangue nostro e della terra, all'assalto del pubblico predoni e criminali, nuotano nell'oro mentre seminano guerra. Se l'acqua è l'anima del mondo, della vita la più preziosa essenza, non lasciamo che la fame senza fondo del dio denaro la divori e ci lasci senza. L'acqua è il sangue della terra, l'acqua è vita, l'acqua scorre libera, e non c'è niente che sia più importante sul pianeta di questo liquido magico che mescola e rimescola. Proprietà privata, perciò sulla testa e schiena dritta, per questa lotta non è prevista la sconfitta, questa è l'ora del riscatto e che parta dal basso, la democrazia dell'acqua contro il loro ignobile ricatto. Nella storia dell'umanità chi governa l'acqua comanda, è una questione di civiltà, rispondiamo tutti insieme come un'onda, è una questione di diritti, non si può subire stare zitti, è una questione di sistema che chiede troppo a tanti e tratta pochi con i guanti, perciò sveglia, alza la testa e lotta dove vuoi, come puoi, in ogni situazione difendi l'acqua pubblica e quello che ci resta dei nostri diritti e di ogni bene comune. L'acqua è il sangue della terra, l'acqua è vita, l'acqua scorre libera, non c'è niente che sia più importante sul pianeta di questo liquido magico che mescola e rimescola. Questo è nulla, l'acqua di bello, questo è nulla, l'acqua libera. E siamo arrivati alle 5 di questo 29 marzo 2011. Region Air finisce qui, ma torna il prossimo martedì per un'altra ora, sempre dalle 4 alle 5. Vi ricordiamo, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Il numero per chiamare lo studio è 06 49 1750. E adesso vi lasciamo al martedì autogestito da femministe e lesbiche. Ciao, buon pomeriggio. Okay. One, two, three, Night boat to Cairo. The Madness, Night Boat to Cairo.